Le prime valutazioni sono che è stato un forum sicuramente diverso dalle aspettative, che ha sorpreso un po' tutti, soprattutto i delegati europei e nordamericani, nonché quelli latinoamericani, abituati alla confortevole atmosfera di Porto Alegre. Qui l'atmosfera era, da un lato, altrettanto se non più confortevole, l'organizzazione è stata perfetta, però rispetto a Porto Alegre c'era un'energia e un entusiasmo che forse nelle ultime edizioni del forum brasiliano si erano un po' persi. Energia ed entusiasmo certamente dovuti all'inclusione dell'Asia e dell'India innanzitutto tra i partecipanti al forum, e quando dico partecipanti intendo il pubblico, la partecipazione diretta della gente di qui, degli indiani comuni che per la prima volta hanno avuto la possibilità di esporre le loro ragioni, i loro punti di vista, le loro analisi davanti e assieme ad un audience, un pubblico, diciamo, internazionale. Questo ha sicuramente arricchito e reso più originali i workshop, i seminari e le discussioni, che forse nelle volte precedenti erano un po' troppo orientati su il punto di vista europeo e latinoamericano. Come in altre occasioni è stata la comunicazione indipendente ad essere la principale voce di informazione e di diffusione di quanto avveniva al forum. È stato per esempio fortissimo il ruolo delle radio comunitarie presenti qui in massa, AMARC, l'Organizzazione Mondiale delle Radio Comunitarie, era presente dovunque e ha fatto un ottimo lavoro di copertura. C'era addirittura un quotidiano della delegazione africana chiamato African Flame, c'era naturalmente Indymedia e c'erano una infinità di voci indipendenti che hanno surclassato quelle ufficiali. Ovviamente i corrispondenti dei vari giornali da tutto il mondo c'erano, ma di fronte all'enormità di quello che si stava svolgendo davanti ai loro occhi, chiaramente non hanno potuto fare altro che ricorrere anche all'aiuto dei comunicatori indipendenti per riuscire a coprire l'evento in modo accettabile. Quanto all'analisi, credo che ancora una volta si sia dimostrato che la collaborazione, lo spirito di collaborazione, di condivisione delle notizie, di scambio, di lavoro anche multilingue, eccetera, sia il modo migliore per fornire una comunicazione che sia al livello di quello che succede. Insomma, essendo un forum mondiale, non possiamo che offrire una comunicazione mondiale.